Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dislocazione temporale potrebbe essere definita così, però se non lavoreremo bene diventerà una specie di discontrollo temporale. Adesso i titoli, poi vi spieghiamo di che si tratta. Un'imbarcazione solare elettrica completamente riciclabile, assomiglia ad un pattino futuristico. È Garda Solar e ha vinto il premio Startup Business di SMAU 2010. Davvero pensate che vediamo con gli occhi, sentiamo con le orecchie e tocchiamo con le dita? Vi faremo ricredere. Siamo a Genova, al Festival della Scienza. Love Machines, il nuovo spettacolo dei Cataclò, si ispira al genio di Leonardo. Gli atleti danzatori volteggiano disinvolti sul piano inclinato. Cosa avviene quando il mondo incontra i nostri occhi? È stato individuato il meccanismo di cattura del segnale visivo. Ciao Chiara. Ciao Federico, non so se dirti buongiorno, buonasera o buon pomeriggio. Chiara Albicocco, adesso tu sei qua con me, qui dove? Qui. Adesso in studio, poi adesso, vediamo. Un adesso che però non sappiamo bene. No, infatti, potrebbe essere adesso come adesso 20:00, ma potrebbe anche essere adesso come 7 giorni fa a SMAU di mattina. Infatti, tu adesso stai per andare a SMAU, che però c'è stato. Sì, spieghiamo un attimo che non siamo impazziti. Dislocazione temporale è il titolo di questa puntata un po' bizzarra, per cui noi ci troveremo improvvisamente qui in studio o a SMAU 7 giorni fa o a Genova, ancora meglio, sì, dove è appena iniziato il Festival della Scienza, e poi anche ad uno spettacolo teatrale. Ma comunque, insomma, avanti e indietro nel tempo, ma intanto che conto sono i contenuti, speriamo che siano interessanti. Noi una bella puntata in evoluzione. Noi incominciamo da SMAU, che si è tenuto appunto circa una settimana fa, e lì abbiamo incontrato i vincitori del premio Startup Business di SMAU, che devo dire la parte delle startup era la parte forse più interessante per quanto riguarda l'innovazione, il trasferimento tecnologico era la parte più importante di SMAU. Infatti sono stati ripresi anche sui quotidiani, sui giornali, le ricerche di questi nuovi gruppi nascenti, e noi abbiamo intervistato proprio coloro che hanno vinto questo premio business, Alberto Pozzo e Alessio Zanolli, che sono i fondatori di Garda Solar. Garda Solar è un'imbarcazione molto particolare, solare ed elettrica, che assomiglia ad un pattino, ma molto futuristico. Senti qua. Va bene. Qua presentiamo Garda Solar Exclusive, è una barca solare elettrica, 100% riciclabile, frutto di design made in Italy. Come funziona? Con una sorta di pannello solare che dà elettricità più un caricatore, una batteria, è giusto? Sì, diciamo che è una barca essenzialmente elettrica che sfrutta l'integrazione solare di pannelli fotovoltaici al 20%, va a circa 4 nodi di velocità, essendo una barca dislocante e adatta per il mondo del noleggio, relax, aree protette, diciamo, e canali navigabili, e sfrutta delle batterie elettriche per fare l'accumulo dell'energia, e ha circa 6 ore di autonomia a 3 nodi e 3 ore a 4 nodi. Quindi potrebbe essere utilizzata come una sorta di pattino, insomma, ha una velocità ridotta e può essere utilizzata in ambito turistico. Diciamo così che la barca si inserisce tra il mercato del pedalò e quello delle barche a motore, è un prodotto, diciamo, un segmento per ora di nicchia su cui contiamo tanto, e quindi non è il classico pedalò pattino o moscone e non è il classico gommone barca a motore col 40 cavalli, è un qualcosa che ti permette di andare comunque vicino alla costa ma senza far fatica come normalmente si fa col pedalò e senza aver bisogno della patente nautica come le classiche barche. Qui a SMAU abbiamo un prototipo, giusto? Ancora l'industrializzazione non è stata attivata. Sì, questo è un prototipo in vetroresina, noi entreremo in produzione verso marzo 2011 con le prime consegne a giugno sempre 2011. La versione finale sarà in polietilene riciclabile multistrato, equivalente come rigidezza a una vetroresina taglio e spruzzo, ma in realtà è anche riciclabile, quindi in più ha questo vantaggio. Possiamo fare una previsione del prezzo, del costo? Del prezzo, nella versione base siamo sotto i 10.000 euro, nella versione con tutta l'automazione e il Similtech, che comunque è un PVC riciclabile, siamo sopra i 10.000 euro. Sì, perché c'è una parte importante appunto anche di multimedialità, c'è un software installato con la possibilità di mettere sia un navigatore satellitare o qualcosa di simile, sia un'applicazione ulteriore per tutta una parte culturale magari, no? Certo, diciamo qui presentiamo una demo dove è possibile vedere su schermo touch l'interfaccia della macchina e quindi avere tutti i dati di autonomia oraria, chilometrica, di velocità, integrazione col GPS e dopo è possibile per i noleggi di un certo livello anche andare a integrare i percorsi diciamo sul navigatore con delle informazioni aggiuntive, come dicevi te, di carattere culturale oppure turistico, ecco. Ed è ecocompatibile quasi al 100%? Al 100% in quanto lo scafo è riciclabile, l'eventuale tech è un similtech PVC riciclabile e tutto il resto sono materie prime riutilizzabili in un secondo tempo. E non emette CO2? Certo, è elettrica quindi. Questo orizzonte delle apparecchiature e degli strumenti completamente riciclabili è veramente interessante, Chiara, perché può sembrare strano, ma anche le automobili si pensano come delle cose che potrebbero essere completamente... Sì, infatti si pensa che magari il riciclabile sia fatto di cartone o comunque di qualche materiale poco duttile e inaffidabile, ecco. Esatto, infatti il nostro, siccome anche gli aerei potrebbero essere progettati in questo modo, il nostro regista non era tanto d'accordo. Ci voli tu su quelle, invece no, potrebbero essere assolutamente efficienti, stabili, vuol dire che assolutamente esatto. No, su questo non abbiamo dubbi. Solidi. Anche l'imbarcazione che abbiamo visto a Smau era assolutamente un'imbarcazione normale a vista. Poi ovviamente, come ci ha spiegato, era fatta di materiali che si potevano riciclare, completamente ecocompatibile. E il mestiere dello sfasciacarrozze, per esempio, per quanto riguarda le auto, cambierà completamente, sarà un mestiere sofisticatissimo. Anzi, altamente tecnologico. Allora, coerentemente, andiamo a vedere che cosa succede nel traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo quasi arrivati a Genova, però il quiz non possiamo non farlo, siamo arrivati al nostro gioco. La domanda è questa: le persone dotate di una memoria fuori dal comune, straordinaria, si conoscono pochi casi nell'ultimo secolo di soggetti con queste caratteristiche, queste persone sono state oggetto di molti studi. Quale comportamento è risultato più efficace per la memorizzazione? Va bene, la prima possibilità, inventarsi delle storie relative alle cose da ricordare. Le storie si ricordano più facilmente dei dati. Ci scriverete storie. Seconda possibilità, la memorizzazione è risultata connessa alla capacità istintiva di respirare rapidamente nel momento in cui si riceve il contenuto da memorizzare. Ci scrivete il respiro. Ultima possibilità, è risultato che questi soggetti, nel momento in cui ricevono i contenuti da ricordare, anche se hanno gli occhi aperti, risultano completamente insensibili a qualunque segnale visivo. Il mondo circostante, insomma, scompare. Ci scriverete mondo, dove al 349-238-6666 il libro che si vince è L'Italia degli scienziati, 150 anni di storia nazionale, scritto da Angelo Guerraggio e Pietro Anastasi ed edito da Bruno Mondadori. In collaborazione con IBS.it. Beh, adesso a Genova ci siamo veramente, siamo fuori all'aperto, sono qua con Chiara Albicocco e con Sara Occhipinti. Sei stanca? Vedo che ti sei stanca. Sì, sono già stanca, sempre così, sono già stanca. E beh, ma il festival è così, se volevi riposare non si viene al festival. 300 appuntamenti, noi siamo fuori ma perché siamo appena usciti da un sacco di sale, di mostre, insomma, luoghi al chiuso con tante belle cose. Sono appunto, come dicevo prima, tantissimi gli appuntamenti del festival, noi vi raccontiamo dei primi. E da che cosa incominciamo? Incominciamo dall'economia, che ha occupato in modo abbastanza importante e anche prestigioso le prime due giornate. E infatti incominciamo da Nassim Nicholas Taleb, che è colui che ha inventato la tesi, il concetto di cigno nero. Allora, nell'Europa del 600 c'erano solo cigni bianchi, gli europei andavano da tutte le parti, improvvisamente arrivano in Australia e scoprono che ci sono dei cigni neri. Siamo un po' all'eccezione. Su una normalità, perché si pensava che ci fossero solo cigni bianchi. Con questa metafora lui da tempo vuol dire che ci sono delle cose che comunque Vada non riesce a prevedere, soprattutto in economia. Taleb ce l'ha su a morte con gli economisti e con le loro previsioni. perché oltretutto ha studiato la crisi che stiamo ancora vivendo e dice che appunto questo delirio di onnipotenza di prevedere i numeri, aspetta, l'ha raccontato in questo modo, sentite. It was exactly a year ago I was in Korea. Ha detto che si trovava in Corea del Sud un anno fa e il numero due del Fondo Monetario Internazionale, c'erano diversi oratori, parlava prima di lui, è andato lì e ha incominciato a proiettare delle slide nelle quali si vedevano le previsioni economiche in tanti settori del 2010, 2011, 2012, 2013. Cosa ha fatto? Gli ha detto no, un momento, toccava a lui parlare, ha detto no, un momento, adesso lei si ferma qui e ci fa vedere le previsioni del 2008, 2009, 2010 che lei ha fatto nel 2003. Insomma è successo un tafferuglio micidiale. Perché? Perché evidentemente sapevamo tutti che quelle previsioni fatte 6 anni fa su come vanno le cose adesso erano completamente sbagliate. Lui dice io non ce l'ho con, non voglio abolire gli incompetenti, però voglio costruire un sistema che faccia sì che il mondo non subisca i danni di questi qua, e gli incompetenti sono per lui gli economisti. Mi chiedo cosa avrebbe potuto dire Taleb ieri invece alla conferenza che appunto parlava di economia, ma dell'economia come scienza, come previsione. Infatti io proprio ho chiesto a Francesco Guala, che era per metà economista sperimentale appunto che fa questo tipo di previsioni e per metà filosofo della scienza dell'Università degli Studi di Milano. La prima cosa che gli ho chiesto è appunto se l'economia fosse una scienza. Certo, sì, l'economia è scienza perché la scienza è fatta di tante cose diverse e l'economia è una delle tante discipline con dei problemi diversi dalle altre discipline scientifiche e altri problemi, altre questioni invece simili a quelle che trattano le altre discipline scientifiche. Quindi la scienza purtroppo è una cozzaglia di tante cose che un po' si assomigliano ma un po' sono anche diverse. E comunque l'economia è una scienza perché cerca di fare quello che fanno le altre scienze, cioè prevedere e migliorare il mondo in cui viviamo. In tanti le avranno chiesto se l'economia è una scienza perché non è riuscita a prevedere la grossa crisi finanziaria. Io lo so, lei sta ridendo, ma questa domanda dovevo fargliela. Sì, perché è molto difficile farlo, perché innanzitutto l'informazione che è necessaria per prevedere quando si sarebbe verificato la crisi non era a disposizione, perché appunto sappiamo che per esempio molti dei subprime mortgages erano sconosciuti perfino alle banche che li avevano che li avevano finanziati. L'altra questione è che non è vero innanzitutto che la crisi non era stata prevista, cioè molti economisti avevano detto già da tempo che ci sarebbero stati dei problemi. Io ricordo benissimo quando ho comprato la mia prima casa, che stavo in Inghilterra circa 10 anni fa, ero ben consapevole del fatto che molti miei colleghi, ma anche sui giornali, si sosteneva che c'era già una bolla nel mercato immobiliare, che questo avrebbe provocato dei problemi. È vero che dove, diciamo, nella stanza dei bottoni, dove c'erano le persone, fra cui anche degli economisti, che avrebbero dovuto cercare di prevenire la crisi, non, evidentemente sono stati commessi degli errori. Ma l'idea che l'economia nella sua interezza non sia stata in grado di prevedere la crisi è, credo, semplicistico. Oh, tu Sara invece ci porti lontano dall'economia? Io sì, come sempre ho la testa per aria e sono andata a una mostra sulle nuvole. Lucia, la nostra guida del festival personale, mi ha accompagnato in questo tour e mi ha fatto vedere come anche dietro a proverbi e detti popolari si nasconda comunque una realtà scientifica. Siamo alla mostra con la testa tra le nuvole e pendono dal soffitto diversi proverbi. Forse non tutti sanno che i proverbi nascondono anche una realtà scientifica. Andiamo con ordine. Per esempio, il classico cielo a pecorelle, acqua a catinelle. Il cielo a pecorelle può essere formato sia da cirrocumuli che da altocumuli e queste nuvi sono proprio originate dal sollevamento di un fronte caldo, quindi di aria calda. Il fronte caldo vuol dire naturalmente pioggia, però comunque non è... in genere questo precede l'arrivo di una perturbazione, quindi è una specie di allarme. Passiamo al classico rosso di sera, bel tempo si spera. Allora, questo è un proverbio che è in genere abbastanza veritiero, nel senso che c'è da vedere la motivazione per il quale il cielo all'alba e al tramonto diventa rosso. Diventa rosso perché è una questione insita anche nel colore del cielo, perché il cielo è azzurro. Il cielo è azzurro perché a noi arriva principalmente la radiazione blu. E alla sera e alla mattina il cielo è rosso perché il sole, essendo più lontano, deve attraversare maggiori strati di atmosfera e la radiazione luminosa, che è maggiormente energetica, arriva di più, invece che quindi arriva il rosso piuttosto che il blu, che è una radiazione meno energetica. E questo è il motivo per cui alba e il tramonto sono rosse. Poi abbiamo un proverbio qua prettamente contadino: quando una nuvola va alla montagna, piglia la zappa e va in campagna. Quando una nuvola va verso il mare, prendi la zappa e vai a cucinare. Esatto, questo è un proverbio abbastanza localizzato, nel senso che ha valenza prettamente sulla costa tirrenica, in quanto, visto che il maltempo va da est verso ovest, se il maltempo va verso il mare vuol dire che la perturbazione si sta allontanando, se invece il maltempo va verso il monte vuol dire che la perturbazione sta arrivando, quindi ha valenza proprio locale su tutta la costa tirrenica, su tutta la costa ligure anche fondamentalmente. Chiara e Sara, diamo la linea alla regia e poi noi ritorniamo sempre da Genova. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ancora qui da Genova con Chiara e Sara. Beh, la novità quest'anno è che però a Genova, al Festival della Scienza, anche noi portiamo qualcosa. Tu l'esperimento della mano di gomma l'hai già fatto, Chiara? E ancora non l'ho fatto, ma siccome abbiamo ancora 3 giorni davanti, penso di farlo al più presto. E vedremo cosa succederà. L'esperimento della mano di gomma, l'inversione destra-sinistra, anche una strana roba che lavora sulle facce. Insomma, sono tutti dei trucchi che però sono degli trucchi sperimentali che gli scienziati, quelli che si occupano di neuroscienze, hanno messo in piedi, hanno sviluppato per cercare di capire in che modo il nostro sistema sensoriale funziona. Sentite Andrea Serino, che è uno dei due ricercatori qua presenti, che illustra al pubblico questi nostri esperimenti, e poi vi dico quando ci sono. Sentiamo. L'idea di queste prove, esperimenti, esperienze è rendere conto di un fenomeno assolutamente naturale, per noi normale, quello che ci succede sempre, però per chi fa ricerca e, se uno ci pensa in maniera approfondita, assolutamente misterioso. Cioè, come facciamo a interagire col mondo esterno? Allora, noi abbiamo tanti canali sensoriali, tante informazioni diverse, vediamo, sentiamo, sappiamo dove sono le nostre parti del corpo, sappiamo di venire toccati, e queste sono tutte informazioni elaborate al cervello separatamente. Però per interagire col mondo, interagire con gli oggetti esterni, abbiamo bisogno di mettere tutto insieme, e di mettere tutto insieme anche con i comandi motori che ci servono a svolgere delle azioni e agire sul mondo. Allora, come fa il cervello a mettere tutto insieme per comportarsi in maniera coerente ed efficiente nell'interazione col mondo esterno? Questa è una delle grandi domande delle neuroscienze cognitive, e in questo laboratorio facciamo tutta una serie di prove, di esperimenti, di mini esperimenti, in cui ci rendiamo conto attivamente di come è possibile ingannare i nostri sensi e il nostro sistema percettivo variando di volta in volta uno o più canali sensoriali. Ho indossato gli occhiali e vedevo che la penna andava verso destra, ma in realtà era più a sinistra, quindi ho cercato di andare verso sinistra, ma continuavo a sbagliare. In un compito mettiamo degli occhiali, che sono delle lenti prismatiche, e chiediamo al soggetto di fare un movimento dritto e veloce verso il mio dito, che sarà posto di fronte a lui. Quando mettiamo questi occhiali, i soggetti sbagliano sistematicamente, nel senso che il loro dito va più a destra del mio dito. Non riescono ad andare a toccare il mio dito. Questo perché? Perché queste lenti inducono una deviazione del campo visivo verso destra. Dopo un po' che uno prova a fare il movimento, corregge automaticamente, spontaneamente questo movimento e va a toccare giusto il mio dito. La cosa divertente è che se io tolgo gli occhiali e quindi riporto una situazione normale e chiedo al soggetto di fare un movimento, a quel punto lui continua a sbagliare ma in direzione opposta, cioè va verso sinistra. Questo perché? Perché il suo sistema sensorimotorio ha interiorizzato la correzione che lui ha prodotto durante l'esposizione prismatica, così si chiama questa esperienza, e se la porta dietro per un certo periodo di tempo. Dopo poche prove ricorregge e ritorna normale. Questo cosa succede? Abbiamo ingannato il sistema visivo senza che lui lo sapesse. Il sistema motorio si è adattato e come conseguenza ci portiamo dietro una correzione di cui siamo totalmente inconsapevoli. Ecco, noi non lo sappiamo che questo succede. Siamo qui sul porto, al padiglione incredibile Enel, fino a lunedì dalle 15 alle 17 e poi martedì invece cominceremo più tardi dalle 17 e finiremo alle 19. Non abbiamo ancora finito con Genova, adesso torno in studio e vi racconto un'altra storia. Altro appuntamento genovese, vi abbiamo già annunciato nella scorsa puntata di Möbius che la nostra trasmissione ha aperto una collaborazione con il mensile di Scienza Newton e Newton a Genova organizza una conferenza su un tema che sta proponendosi di grande attualità, la relazione fra strumenti scientifici e procedure legali nelle inchieste e nel dibattito processuale. Sappiamo tutti che l'analisi del DNA è uno di questi strumenti, ma negli ultimi anni si stanno affacciando nuove tecniche, in particolare le neuroscienze, parlando solo di scienze, le abbiamo spesso incontrate qui a Möbius. Sono tecniche che riescono a catturare delle immagini del nostro cervello quando noi agiamo nella realtà perché stiamo ascoltando un brano musicale, ma anche se rispondiamo a delle domande oppure proviamo una certa emozione. È evidente quindi l'utilizzo e i problemi connessi di queste tecniche in un iter legale, giudiziario. Al Teatro Duse di Genova, giovedì 4 alle ore 18, si discuterà di questa controversa vicenda. Ad Amedeo Santosuosso, giudice alla Corte d'Appello di Milano e docente di diritto, scienze e nuove tecnologie all'Università di Pavia, che sarà uno dei relatori, ho chiesto come stanno le cose oggi per quanto riguarda appunto questa relazione fra scienza e tribunali. Le neurotecniche, cioè le tecniche che possono essere applicate all'interno di un processo penale, ormai hanno fatto ingresso nei processi penali e nelle altre applicazioni giuridiche che si possono immaginare. È un ingresso iniziale, ma ormai vi sono casi giudiziari sia in Italia sia in altri paesi europei in cui queste tecniche sono state utilizzate. Il problema è in primo luogo capire in quale misura esattamente e secondo quali modalità queste tecniche sono impiegate, se sono impiegate in modo corretto, nel senso che si trae vantaggio da quello che possono dire, ma non gli si attribuisce più valore di quello che possono avere. L'esperienza americana, che è americana-statunitense, è un'esperienza dove si stanno cominciando a vedere dei casi in cui i giudici adottano un atteggiamento di tipo restrittivo, cioè quasi già una reazione di limitazione in corso. Però diciamo che le opportunità che possono offrire oggi e in prospettiva le neurotecniche, e cioè la possibilità di conoscere dall'interno del funzionamento del cervello la relazione che ci può essere con il comportamento umano, diciamo che questo è un capitolo aperto o riaperto che va affrontato. E vi è ora di recente costituzione un gruppo internazionale al quale aderiscono 10 paesi, tra i quali paesi europei più Canada e Stati Uniti. Questo gruppo è coordinato al momento dall'Università di Pavia, dal nostro centro interdipartimentale. Lo scopo è esattamente quello di capire che cosa sta succedendo e mettere in relazione queste diverse esperienze. Anche perché, Santosuosso, se non si riesce ad avere un quadro abbastanza preciso di come possono essere utilizzate, credo che la materia è talmente, insomma, si presta moltissimo, per esempio in sede di dibattimento, a un'infinità di querelle, insomma, nel rapporto tra accusa e difesa. Sicuramente. Il problema è, oggi come oggi, noi sappiamo per certo che queste tecniche possono cominciare a dirci qualcosa. Questo qualcosa può essere prezioso, ma sicuramente queste tecniche non ci risolvono il problema di capire esattamente perché una persona ha commesso una condotta aggressiva, deviante o che costituisce reato. Il problema che abbiamo o in generale, e che dobbiamo essere rigorosi verso l'utilizzo di queste tecniche in modo tale che si eviti di attribuire loro delle potenzialità che al momento almeno non hanno. Ma nello stesso tempo bisogna essere consapevoli che le altre tecniche che sono di tipo comportamentale, cioè oggi come oggi per capire perché o provare a capire perché una persona ha commesso un determinato reato, si parte dal comportamento e si cerca di risalire alla situazione psichica della persona. Ebbene, queste tecniche sono ampiamente controverse, ampiamente approssimative, certo, anche quando gestite da ottimi professionisti, per cui il quadro è particolarmente complesso, richiede una grande prudenza, ma poi soprattutto una grande conoscenza di quello che effettivamente le neuroscienze e le tecniche correlate, e in particolare il brain imaging e la risonanza magnetica funzionale, possono cominciare a offrire. E su questo, da parte della, anche della magistratura vi è, e del mondo del diritto, vi è un interesse. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha già manifestato il suo interesse per la partecipazione a questo gruppo internazionale di cui parlavo prima, lo stesso il Tribunale di Milano, e si stanno muovendo istituzioni simili anche negli altri paesi europei. Lo scopo principale è conoscitivo e di dialogo tra scienza e diritto. Al Teatro Duse di Genova, giovedì 4 alle ore 18, si discuterà appunto di tribunali e scienza. E adesso ritorniamo al traffico e vediamo se qualcosa è cambiato sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz che vi chiedeva come fanno i grandi mnemonisti, coloro che hanno una memoria straordinaria, appunto a ricordare, che tecniche usano. Va bene, istintivamente a costoro viene naturale quasi sempre il metodo delle storie. Si inventano dei mini racconti che catturano tutti i dati. I numeri diventano numeri civici di strade, ore della giornata, numero di persone presenti in un luogo, e ovviamente allo stesso modo è facile dare nomi di vie a persone il cui nome deve essere ricordato, e alla via così. Insomma, inventarsi storie con dentro tutti i dati da ricordare. Se vi dico Cataclò, che cosa vi viene in mente? Posso dirvi solo che c'entra Leonardo da Vinci, ma fra una decina di secondi al massimo saprete tutto da Chiara Albicocco. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anatomie scolpite, muscoli in tensione, movimenti aurei cronometrici. Il corpo umano è la più perfetta di tutte le macchine. Così la considerava Leonardo da Vinci e così la ripropongono i Cataclò, la compagnia di atleti e danzatori che si muovono sinuosi tra i piani inclinati, che a loro volta si spostano creando una scenografia in continua evoluzione. Cosa succede se un piano viene inclinato di qualche grado? Gli equilibri si spezzano, si modificano e si ricreano. Così i ballerini danzano e volteggiano sulle pedane inclinate, con naturalezza, ma i muscoli non tradiscono. Sono in tensione, così contratti da ricordare i disegni di anatomia umana di Leonardo. L'uomo è una macchina perfetta, capace d'amore. Love Machines è infatti il titolo dello spettacolo che debutterà giovedì 4 novembre al Teatro Ciak di Milano e poi girerà tutta l'Italia fino alla prossima primavera. Ma ora sentiamo dalle parole della regista e ideatrice Giulia Staccioli come è nata l'idea di portare in scena uno spettacolo ispirato al genio creativo di Leonardo. L'ispirazione nasce dall'idea e quindi dal pensiero. Un genio come Leonardo è proprio l'emblema di dove può portare un pensiero, per cui il legame con lui è proprio questo, il non fermarsi davanti alle apparenze, coltivare la curiosità, andare oltre, sperimentare, non fermarsi. E quindi l'omaggio a lui nasce proprio dalla condivisione di questo modo di vedere la vita, e lui credo che sia, come dire, per noi italiani poi in assoluto il genio, no? Per antonomasia, e la sperimentazione che c'è all'interno di questo spettacolo parte proprio da quest'idea. Un piano inclinato è una variazione minima di quella che è la realtà, ma che può spaventare moltissimo se non si va oltre il primo impatto. E andando oltre a questo primo impatto abbiamo trovato un vocabolario, un linguaggio del corpo nuovo che è molto suggestivo. E poi devo dire che anche il corpo, che è la macchina perfetta per eccellenza, oggetto di diversi studi di Leonardo, l'anatomia, nei tuoi danzatori devo dire che ha la perfezione quasi assoluta. Ma potrei dire che nella fase sperimentale, nel momento in cui, tra l'altro era estate proprio all'inizio, che loro quindi erano a torso nudo, sudati, adesso non vorrei dare un'immagine un po' malsana, ma veramente sembravano dei disegni, degli studi. Ho detto, poi su dei piani inclinati dove lo sforzo è massimo e quindi la tensione muscolare è molto evidente, con i corpi come i loro sembrava veramente di vivere dentro a un disegno leonardesco. Ti chiederei di spiegarci, per quanto è possibile in radio, la scenografia, che è veramente particolare, ispirata appunto al piano inclinato di Leonardo, ma che è in continua evoluzione. Allora, intanto si tratta di uno spettacolo di physical and visual theater, cioè è anche molto visuale, quindi non è facilissimo spiegare il movimento e l'immagine per radio. Comunque sono delle strutture triangolari che quindi hanno un piano inclinato e due piani ortogonali che si compongono e si scompongono durante lo spettacolo, quindi questi sei elementi triangolari che vengono utilizzati e mossi dai danzatori durante lo spettacolo si uniscono e man mano creano delle forme nuove, con i danzatori che quindi agiscono sia all'interno di questi triangoli che all'esterno, tutto questo raccontando una storia, e quindi diciamo che si segue il racconto attraverso questi sei elementi fisici, perché sono di legno, sono di pelle, sono di cuoio, che piano piano si compongono e scompongono. Nel vostro spettacolo c'è quasi anche un po' la personalità di Leonardo, che è creatività e scienza insieme, anatomia e estro artistico quasi incompreso anche ai più. Ma guarda, lo prendo come un grandissimo complimento. La cosa che a me ha sempre intrigato del pensiero di Leonardo è proprio questa, il fatto di aver messo insieme sempre tantissime componenti, però ognuna di queste, quindi anche un Leonardo scienziato, quindi apparentemente molto tecnico, ha sempre, almeno a me, ha sempre dato comunque una grande emozione, ed era questa emozione qua che mi ha sempre sorpreso, come potesse esprimerla attraverso un dipinto così come attraverso un bozzetto tecnologico. E quindi insomma diciamo che in questo spettacolo io ho cercato di metterci tutte queste componenti. Love Machines significa proprio questo, una macchina, ma una macchina capace di amore. Per coloro che sono qui a Genova o qui vicino, e per tutti quelli che nei prossimi giorni fino a martedì fanno un salto al Festival della Scienza, noi saremo al grande stand dell'Enel, proprio lì sul porto, sono 800 metri quadri, non potete non vederlo. Ci siamo con una serie di esperimenti dedicati a capire in che modo funziona la nostra mente. Per esempio, cosa succede se vi facciamo mettere una mano in una strana scatola con degli specchi che vi fa vedere la sinistra come la destra, le inverte, insomma. Oppure se vi tocchiamo il palmo delle mani, ma ad un certo punto tocchiamo anche quello di una mano di gomma. Ecco, venite da noi il pomeriggio dalle 14.30 alle 17 fino a martedì, però martedì attacchiamo alle 17.30, vi faremo fare gli esperimenti dal vivo e poi vi spiegheremo le ragioni scientifiche di tutto ciò. C'è poi da dire che lo stand di Incredibile Enel, si chiama così, è tutto basato su esperimenti con il pubblico, dai più piccoli con la sezione raggi e soffi dove si costruisce un piccolo generatore eolico, oppure con rifiuti energizzanti dove si studiano le biomasse utilizzando gusci d'uovo e bucce di varia natura. Però anche per i più grandi c'è il laboratorio a chiappa energia, qui si simula un ambiente domestico con consigli per ottimizzare i consumi elettrici, e troverete anche dei consulenti per rispondere a delle domande sui vostri consumi. E insomma, per quanto riguarda noi, siamo qui insomma sul porto. Siamo in chiusura. La prossima settimana vi parleremo di Genova ancora, ci sono davvero tante cose da raccontare, è il più grande festival di scienza europeo. Buona serata a tutti e a tutte da Möbius.